comincia così, comincia di notte, tra secoli di favole di ossa rotte. È nata così, in questa foresta, da un lupo che nel buio mi ululava in testa. L'hai mai capito veramente chi sei tu? No, non lo so, ci proverò. Scappo in California, un cuore in equilibrio perso sopra un surf. Scappo in California, partito per un party e ritornato a surf. Che vergogna, che menzogna. Riparte da qui, da questa missione, fare una ragione oltre l'opinione. Riparto da qui, da sole distante, da quelli che si accorgono e non fanno niente. La vita è così, aspetti il weekend e oggi è già lunedì. Mi accetto così, che oggi è il mio venerdì. Promesse abbandonate su una spiaggia di ponente, visione illuminata quasi sempre resistente. Credevo di essere vero, ma era un gioco della mente. Pensavo di decidere, ma non sceglievo niente. Ballavo sopra il fuoco e mi bruciavo lentamente.